Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Lorenzo Sassoli De Bianchi, 62 anni, bolognese, imprenditore, sposato con un figlio. La sua azienda, la Valsoia, è quotata in borsa, studi di medicina, una passione per l'arte, la fotografia, fino alla guida del Museo Mambo di Roma, che sta per inaugurare la mostra di David Bowie. Suo padre era socio della Bouton, che produceva la vecchia Romagna, ma lui ha abbandonato la storia imprenditoriale di famiglia perché, dice, i soci volevano soprattutto risultati e dividendi ed è diventato il signore della soia. L'anno scorso Sergio Mattarella lo ha nominato Cavaliere del Lavoro. Oggi è presidente dei pubblicitari italiani, Lupa, cioè i padroni della pubblicità su giornali, televisioni e internet. Allora, dottor Sassoli, riparte la pubblicità? Eh? Sì. Con quali prospettive per il 2016? Ma noi ci aspettiamo di crescere tre volte il PIL. Tre volte il PIL, 3%. Senta, i consumi però sembra che non seguano ancora. I consumi stanno ripartendo. Stanno ripartendo. Magari a macchia di leopardo, ma ci sono alcuni settori che stanno tirando forte, come ad esempio l'automobile. Ah. Senta, ma gli 80 euro di Renzi sono serviti o no per rilanciare i consumi? Secondo me sì. Un po' sì? Sì. Ah. Le piace Renzi? Non è una questione mi piaccia o non mi piaccia, io penso che sia la persona giusta in questo momento per il nostro paese. Ed è un buon venditore del prodotto Italia oppure no? È un ottimo venditore del prodotto Italia. Ma l'Italia che lui racconta c'è già o non ancora? No, c'è nella sua testa e questo è già qualcosa, nel senso che vuol dire che ha un progetto in testa. E che cosa manca? Manca la trasformazione degli annunci in cose concrete. Purtroppo, non è poco. Non è poco. Nel 2011 si è parlato di lei come sindaco di Bologna. Poi perché non è capitato niente? Ma perché hanno forse pensato che io non fossi adatto, nel senso che era un momento critico per Bologna. Bologna era commissariata, si cercava un civico. Poi la politica ha pensato invece di restare nel proprio ambito. Senta, lei a Bologna però corre spesso col presidente Prodi, vero? È vero. Ecco, e di Renzi parlate? Gli corro dietro, diciamo, perché lui è più veloce meglio. Di me. Sì. Ah, sì. E quindi non riuscite a parlare? No, riusciamo a parlare, ma non parliamo di politica, soprattutto non parliamo di politica italiana. Ah, parliamo di politica internazionale, di cui lui è appassionato. È appassionato ed è importante, come dire, analista. Ecco, dottor Sassoli, il vostro osservatorio televisivo invece, che è l'Auditel, che misura gli ascolti dei programmi e quindi determina gli investimenti, ultimamente è stato al centro di un grande scandalo perché le famiglie coinvolte in realtà si è scoperto che erano note, non sconosciute. Come avete rimediato? Abbiamo rimediato disegnando una roadmap che sostituisse completamente il campione nell'arco di 6 mesi. Stiamo procedendo in questa direzione, è stato un auto da fè. È stato un momento difficile in cui abbiamo dovuto sospendere certo, per una settimana, le rilevazioni per 10 giorni e in quei giorni fra l'altro è stato interessante perché un violinista zigano cieco valeva quanto il sarotto di Maria De Filippi. Senta, ma che garanzie in più hanno adesso gli inserzionisti e gli ascoltatori su due lati del problema, sulla veridicità dei dati audio? Beh, adesso abbiamo messo a punto dei sistemi di controllo molto molto stretti e il campione totalmente rinnovato, come dicevo. Ma è rinnovato e si rinnova ciclicamente? Si rinnova ciclicamente, il 20% all'anno. Sono 5.700 famiglie che ogni anno vengono rinnovate al 20%. Senta, ma perché ciclicamente la credibilità dell'Auditel invece crolla e viene messa in dubbio? Ma questo io non glielo so dire. Però capita. Capita. Non capiterà più. Non capiterà più. Con che criterio è composto il campione? È rappresentativo della popolazione italiana, è forse il più interessante campione sociodemografico italiano. Ma qual è il giro d'affari che ruota intorno ai dati dell'Auditel? Circa 5 miliardi. 5 miliardi, tanti soldi. Ecco, adesso con tutti i media nuovi attraverso cui si vedono programmi, come pensate di misurare anche quel pubblico? Non è semplice. Non è semplice, è complicato perché ovviamente televisore non è più sinonimo di televisione, certo. Per cui le immagini televisive vanno su tantissimi mezzi, andranno sempre di più, dallo smartphone ai tablet, eccetera. E come pensate di catturare? Beh, ci sono strumenti tecnici che ci permetteranno di farlo, siamo all'inizio della sperimentazione. Ecco, un anno fa, dottor Sassoli, lei parlando della RAI, diceva: non mi piace la proposta di un amministratore unico nominato dal governo, si tratterebbe di una lottizzazione mascherata. Invece è andata proprio così. Conferma il suo dissenso. Sì, conferma il mio dissenso, che non è riferito alla persona, certo, ma è riferito al metodo. Noi avevamo fatto una proposta, che è quello che vogliono gli italiani: sganciare la televisione dalla politica, e voleva dire conferirla a 50 anni. Ma c'era una soluzione semplice: conferirla a una fondazione. Invece si è tolto, si è tolto lo strumento televisivo dal Parlamento e si è spostato sotto il governo, quindi il legame con la politica è lo ancora stesso. Più stretto. No, è ancora non è più lo stesso, stretto. È più stretto. È addirittura più stretto. Dando tutti i poteri all'amministratore delegato è ancora più stretto. Sì, questo poteva essere contemplabile, perché un responsabile ci vuole. Naturalmente, in ogni azienda. Lei lo conosce Campo Dall'Orto? Sì, lo conosco. Lo conosce, è un uomo che può garantire il pluralismo necessario. Campo Dall'Orto è un uomo di prodotto. È un uomo che deve dimostrare di essere di progetto, e questo lo vedremo nei prossimi tempi. È un uomo autonomo nel pensiero, quindi io penso che farà bene. Senta, ma lo può fare questa sganciare la televisione dalla politica un uomo della Leopolda? No, ma guardi, la politica non si sgancerà dalla televisione, perché nel momento che resta sotto il governo non è sganciata. E quindi finché non la conferiremo risponde al governo. E beh, per forza. Senta, dottor Sassoli, e quindi il pluralismo, addio. Sì, noi avevamo fatto una proposta che era molto diversa. Sì, ecco, ma questa, dato che adesso è questa invece. Sì, ma siccome noi siamo anche un po' azionisti della RAI, nel senso che... Certo, con la pubblicità ci deve... Certo. Premerete, insomma. Premeremo. Vigilerete. Vigileremo. Senta, è vero che appunto voi inserzionisti auspicate un canale generalista della RAI totalmente senza pubblicità? Sì, noi avevamo fatto una proposta articolata che prevedeva lo sganciamento dalle audience almeno per una rete. Perché? Perché noi siamo innanzitutto imprenditori in questo paese, non siamo solamente dei biechi investitori pubblicitari. Per cui a noi interessa che il paese cresca, e la RAI secondo noi è uno strumento potenziale di crescita, grande del crescita, paese. Certo, cioè gli inserzionisti pubblicitari vogliono un canale RAI senza pubblicità. È un paradosso, sembra una contraddizione. No? Sì, ma non lo è. Non lo è, non lo è, perché siamo imprenditori. Lei mi dà la sua imprenditori e cittadini, perché questa cittadini, è una proposta da cittadini. Operiamo in questo paese, vogliamo un paese più civile. Senta, ma mi dà la sua personale definizione di servizio pubblico? Servizio pubblico è qualcosa, è uno strumento di crescita del paese, di crescita sociale, di crescita culturale, di crescita di consapevolezza e di crescita di responsabilità. E la RAI oggi lo è? Speriamo che lo diventi, che speriamo torni che ad esserlo. Lei pensi che nel 59 la RAI in prima serata dava L'idiota di Dostoevskij e tutti gli italiani erano incollati, certo, alla televisione. C'era solo un ha insegnato l'italiano, c'era solo un c'era canale, solo un canale. Sì, però potevano anche non vederla, prima ascoltavano la radio. Senta, ma cosa dovrebbe cambiare per diventarlo? Deve avere un progetto chiaro e definito, e lo vede, che va per in adesso, questa direzione. Ho detto lo stiamo attendendo. Senta, dottor Sassoli, molti pensano che il futuro della pubblicità sarà legato allo studio dei big data. È vero? Beh, in parte sì, nel senso che, oggi senso? Il mondo si è molto molto frazionato, cioè c'è un individualismo molto diffuso, per cui per noi è molto interessante conoscere le abitudini dei singoli potenziali consumatori. Per fare delle pubblicità più mirate. Per fare delle pubblicità più mirate. E quindi anche i palinsesti saranno individuali. Insomma. Anche i palinsesti saranno individuali. Senta, ma mentre si sviluppa velocemente l'economia digitale e i giornali sembrano più o meno morire, c'è un grande finanziere americano, Warren Buffett, che invece fa incetta di giornali locali. È pazzo? No? No, perché non dobbiamo confondere editoria con giornali fisici, cartacei. Warren Buffett ha investito sull'editoria, che vuol dire produzione di contenuti. Questa non morirà mai. Certo, però quelli sono giornali locali, insomma. Sono giornali locali, oltretutto la stampa locale ha più futuro. Certo, è legata al territorio. Certo. Senta, la carta stampata ha un futuro solo locale oppure anche diverso dal punto di vista pubblicitario? Dal punto di vista pubblicitario si dovrà articolare maggiormente. Oggi noi non investiamo solamente sulla carta stampata, ma su una proposta più complessiva che va multimediale. Cioè, e questo sarà lo giornali, radio, dell'editoria. Questo sarà lo sviluppo dell'editoria, una proposta multipiattaforma. Ecco, molti pensano che l'online però sta cannibalizzando la carta stampata. In parte è vero, soprattutto sui giovani. Perché i giovani non leggono. I giovani non leggono i giornali. Ecco, e preferiscono informarsi sui siti web sia per ragione anagrafica, ma anche perché non c'è la pubblicità sui siti web, no? Nell'online possono evitarla. No, sui siti la possono skippare, come si appunto. Dice, però loro si informano di più sui social che sui siti web. È questa grande passaparola che invade il mondo, è da lì che arriva l'informazione. Senta, ma lei come si immagina la rivoluzione digitale in Italia una volta compiuta? Beh, innanzitutto dobbiamo avere la banda larga, e siamo al 92esimo posto al mondo per velocità. Perché a 100 si ferma, perché sennò saremmo... Perché siamo più indietro del Madagascar, le speranze della banda larga sono ancora... Ma sono per parole per adesso, fanno parte di quei progetti. Fanno parte di quei progetti. Di cui si parla, ma insomma aspettiamo che capitino. Sì. Senta, dottor Sassoli, anche il suo predecessore, Malgara, era un imprenditore dell'alimentare come lei, ha fondato la Chiari e Forti. È un caso o c'è una ragione in qualche modo in questa successione? No, è un caso, è solo perché siamo investitori pubblicitari. Io poi ero l'ultimo arrivato, per cui è stato veramente un caso che io sia diventato presidente dell'UPA. Ma è una eredità difficile quella di Malgara? Molto. Perché? Molto, perché c'è la responsabilità di gestire 9 miliardi di investimenti pubblicitari in Italia. Sono in qualche tanti. Maniera di assumersene la responsabilità, di dialogare con le autorità e di tutelare sia naturalmente gli investitori, ma comunque anche il sistema. Certo. Senta, dottor Sassoli, come imprenditore, dagli anni Ottanta lei ha deciso di puntare sulla soia. Perché la soia? Ma perché la soia ha queste proprietà salutistiche ed ha questa grande duttilità. Con la soia si possono fare tantissimi prodotti. Mia idea era di contribuire a dare un po' più di salute al paese. Ma nel suo settore, nell'81, le ditte sementiere erano 7.000. Oggi sono 6 multinazionali che controllano tutto. Forse un po' di paura bisogna averla. Penso di sì. Beh, detto da lei, fa accapponare la pelle. Senta, le faccio un esempio concreto. Oggi noi possiamo mangiare, per esempio, banane tutto l'anno, è vero. Ma banane solo di un tipo, le Cavendish, che è quella che conviene di più le multinazionali. Uno degli esempi in cui, appunto, il gioco... Non so se vale la candela per il consumatore. Certamente la concentrazione non aiuta. Noi siamo per il pluralismo. Io per esempio compro soia in tutto il mondo e non solo da un unico fornitore, e soprattutto evitiamo la soia geneticamente modificata. Ecco, arriviamo poi all'ONG, alla modifica dei semi. Ma per esempio il latte di soia prima non esisteva, poi è stato inventato. Sono i gusti che cambiano o è marketing? No, è una necessità del consumatore. Le intolleranze al lattosio stanno crescendo esponenzialmente. Perché? Perché forse ne siamo più consapevoli, o probabilmente perché la globalizzazione fa sì che popolazioni che prima non vivevano nel mondo occidentale si ritrovano nel mondo occidentale e hanno bisogno di prodotti nei confronti dei quali non sono intolleranti. Senta, Michel Pollan nel libro In difesa del cibo dice: se vi sta a cuore la salute, evitate i prodotti bio, tutta quella roba lì che piace lei, eccetera. Perché dice sono solo marketing, a torto? No, sì, a torto. Perché a torto? A torto, ma c'è molta serietà nell'industria alimentare. Adesso non voglio parlare della Valsoia, ma in generale. Pensi a quanti pochissimi scandali alimentari ci sono nel nostro paese. Beh, però la comunicazione alimentare è abbastanza generica e ambigua con le sue promesse. Noi cerchiamo di essere responsabili. Ma anche avete in un codice etico? Certo, certo, esiste l'istituto di autodisciplina a cui tutti ci sottoponiamo e non possiamo fare promesse che non si possano mantenere. Le autoverificate? Le autoverifichiamo e le verificano i nostri concorrenti e le possono verificare i consumatori. Senta, dottor Sassoli, suo nonno durante la crisi del 29 salvò la Bouton, che era una fabbrica di liquori di Bologna, un'azienda fondata dalla sua famiglia. Per farlo si dice, non so se leggenda o verità, si dice che ha venduto tutto. Ha fatto bene? Ha fatto molto bene. Perché? Perché ha messo l'azienda al centro. Io penso che le aziende devono essere ricche e le famiglie, non voglio dire povere, ma sobrie. E questo è il modo per poter continuare per generazioni. Dottor Sassoli, lei per riportare, seguendo sta strada probabilmente, per riportare in Italia le marmellate, i pelati, ha sborsato 25 milioni di euro all'Unilever. È andata meglio a lei o meglio al nonno? È andata bene a tutti e due. È andata bene a tutti e due. Senta, le grandi migrazioni che sono in corso, come incidono sul mercato alimentare? Molto? Molto, come le dicevo prima, molto, molto, perché cambiano ovviamente non solo gli stili di vita, ma anche la struttura antropologica del consumatore, il quale ha caratteristiche assolutamente diverse. Ma per esempio, uno che compra il gelato alla soia, lo fa perché è cambiato il gusto e gli piace, oppure ha vinto il marketing? No, lo fa perché vuole assumere meno grassi, non, ha magari dei problemi di colesterolo ed è intollerante al lattosio, quindi sono dei motivi reali. Lasciasse perdere il gelato, diciamo. Sì. Beh, potrebbe lasciare perdere il gelato, ma siccome il gelato è buono, va bene. Anche quello di soia? Anche, soprattutto. Soprattutto, ovviamente, naturalmente. Senta, nutrire il pianeta era il tema dell'Expo. Si può farlo senza ricorrere all'OGM, dicevamo prima? Si può. Si può? Si può, è un tema molto serio. Sì, serissimo. Perché quando noi contaminiamo il mondo vegetale con il mondo animale, rischiamo di creare grossi problemi. Mostri. Mostri. E la, guardi, è la storia della mucca pazza. Nel momento che abbiamo dato a dei vegetariani, come le mucche, delle proteine animali, sono nati questi problemi. Lei è contro le OGM per questo? Assolutamente. Ma è vero che il destino delle nazioni dipende dal loro modo di mangiare, di nutrirsi? Oddio, questa mi sembra un'affermazione. Vede, Goethe diceva che l'incendio di una catapecchia è una tragedia. Il futuro di un paese è solo un'enunciazione. Ci affidiamo a Goethe. Senta, ma il popolo, si può dire qual è il popolo che mangia meglio, secondo lei? Si nutre meglio? No. No. Lei ha detto che Michele Ferrero è stato lo Steve Jobs dell'alimentazione. Anzi, ha precisato, Steve Jobs è il Michele Ferrero dei computer. È vero. Cioè, perché? È assolutamente vero. Michele Ferrero è stato il più grande innovatore, forse l'imprenditore italiano, è uno degli imprenditori al mondo che maggiormente ha innovato. E quindi in questo senso, siccome Steve Jobs è venuto dopo... Certo, ha copiato, insomma. ha copiato il metodo. Senta, lei è un uomo che ama l'arte, l'abbiamo detto, sta per aprirsi la mostra su David Bowie a Bologna. Cosa dovrebbe fare il servizio pubblico per l'arte? Parlavamo di servizio pubblico. Il servizio pubblico o il paese? Beh, intanto partiamo dal servizio pubblico, che racconta? Beh, il servizio pubblico, sganciandosi, come noi abbiamo proposto, almeno su una rete televisiva, dal audience, può fare delle proposte più azzardate, ecco, essere meno dipendente dall'audience, rischiando qualcosa di più. Senta, aspettando il servizio pubblico, speriamo che arrivi, perché per adesso i programmi sull'arte, invece che farli, sono stati chiusi, Lupa ha inaugurato un portale per far incontrare la domanda e l'offerta di sponsorizzazioni culturali. Sì. Ecco, come sta andando questa operazione? Sta andando molto bene, stiamo raccogliendo centinaia di proposte. È la prima volta che succede al mondo. Perché il problema è che chi cerca sponsorizzazioni non sa dove andarle a cercare e chi le vuol fare si ritrova solo delle proposte sul tavolo e non è in grado di avere una visione complessiva. Se lei va sul sito upaperlacultura.it, lei troverà un panorama molto completo della realtà culturale italiana. Ecco, senta, l'Art Bonus, che è stata introdotta dal ministro Franceschini, che permette ai privati che fanno donazioni di godere il 65% di detrazione, funziona? È un'ottima cosa. Guardi, è la prima volta che in Italia si fa una cosa seria in questa direzione e le dirò che è il maggior incentivo fiscale che almeno io conosca in Europa. Ma se lei fosse ministro dei beni culturali, cosa farebbe subito? Batterei per avere più soldi per la cultura. Oggi l'Italia investe l'1,1% del proprio PIL sulla cultura, la media europea è del 2,2%, la Francia è il 2,5%. C'è da fare. C'è molto da fare. E, è il paese da cui imparare come gestire bene i culturali? Beh, la Francia, senz'altro. Senz'altro, sì. Perché riesce a vendere bene tutto quello che ha. Ma lei pensi che il Louvre ha il numero di spettatori pari a tutti i musei, alla somma di tutti i musei italiani e dei siti archeologici? Un certo, solo perché museo. Usano i musei anche per fare tutto, fanno anche le sfilate di moda dentro. Vabbè, adesso io non esagererei. No, è vero. Sì, però non è solo questo il tema. A Bologna non lo fa lei? No. No, no, niente sfilate. No. Senta. Tremonti diceva che con la cultura non si mangia, è vero o no? No, guarda, è una cavolata gigantesca, cioè con la cultura si mangia, innanzitutto con la cultura si cresce, cresce una società, cresce una comunità, cresce un paese. È il più grande fertilizzante di cui disponga un paese, poi non parliamo dell'Italia. E noi però non ci crediamo. E perché non ci crediamo? Perché abbiamo il piede gonfio, abbiamo il passo lento, non abbiamo un progetto. Più di 50 governi dal dopoguerra a oggi non hanno avuto la possibilità di progettare e di puntare su quello che sono i nostri punti forti. Il Ministero dei Beni Culturali è nato per ultimo. È nato per ultimo. Forse andrebbe accorpato con quello dello sviluppo economico. E del turismo. Beh, sì, insomma, tutto insieme. Perché sarebbe il segno di avere del progetto che prende corpo. Esattamente. È così. Senta, per finire, a proposito di non si mangia, c'è un piccolo sindaco in un paesino che non mi ricordo qual è, che ha deciso di investire in cultura, ha investito una quota molto importante del suo budget in cultura. È la strada. Quella è la strada. Sa, durante la crisi, il trasferimento dal governo al Ministero dei Beni Culturali durante i 5 anni di crisi si è dimezzato. Allora è facile, no? Certo. Nei momenti difficili si taglia la cultura. Però poi si pagano prezzi a lungo termine. Certo. Devo dire che Franceschini si sta battendo per invertire questa tendenza. Senta, per finire, torniamo alla sua famiglia. Suo nonno aveva 12 figli. Sì. Eravate 40 cugini, praticamente una piccola public company. Vero. Lei ha raccontato, ho letto, diceva: se c'era qualche nipote con la testa calda, lo si assumeva, lo si mandava da qualche parte nel mondo dove potesse non nuocesse, insomma, tenendolo fuori dalla gestione. È successo tante volte? Beh, è successo abbastanza, non abbastanza, nel senso che... Cioè, sono rimaste delle mele marce? No, non delle mele marce, ma c'era forse troppo famiglia dentro l'azienda e soprattutto era venuto meno un principio che secondo me è quello di fondo. Le famiglie debbono essere a servizio delle aziende e non viceversa. Ecco, ma questo... non è un rischio sempre per le aziende familiari? Certo, difatti dobbiamo educare i nostri figli alla responsabilità. Cioè, Max Weber diceva che un'impresa innanzitutto è un atto di responsabilità. Ma hanno un futuro le imprese familiari, secondo lei? Ce l'hanno se si affronta il tema con responsabilità, se si educano i figli ad essere magari soci e non manager, e se si mette al centro l'azienda e non la famiglia. Grazie. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Beh, allora Lorenzo Sassoli di Bianchi, capo dei pubblicitari, dice che la pubblicità sta ripartendo, è un buon segnale per l'Italia. Sì, è una bella sferzata di energia, infatti gliel'ho detto adesso. Sì, vabbè, insomma, anche la pubblicità sulla radio, andiamo bene, facciamo un bel titolo. Certo. Titolo? Mario, No, è il titolo, vado, è una sferzata di energia. Una sferzata per me di energia. E di denaro anche, che non guasta, quindi... Tu niente. No, faccio. Che titolo faccio? Fai? È positivo, me ne raccomando. No, lui fa come vuole, lo sappiamo. Faccio? Vai. Dai. Servizio pubblico in salsa di soia. Bello. Questa sugli EGM però è una partita tutta da giocare, perché insomma, effettivamente, se non ci fossero forse... tanta gente non mangerebbe anche. Insomma, è complicata. Non è che sì, quella era la sua opinione. Allora, cosa ci fai ascoltare oggi, Pietrangelo? Arriva. You metropolitana oggi c'era amore, meglio, l'ho sentito tutti. Indifferente amore, un amore che dà alla testa come il vino di Persia, un amore distruggitore di esistenze tutte svuotate, l'amore che prende l'anima per gettarla nel fuoco. Le donne tra i pendolari volevano ritrarsi, ma si avvicinavano a lui per piangere e rimpiangere. Ha telefonato Roxane e la dedica la fa a Cyrano de Bergerac con un messaggio: hai portato l'uomo sbagliato nella mia vita, ed è il pazzo dolore dell'amore. No, scusa, segnalo che ha messo la PU. Cioè io sono... mi sto per alzare e andare. E perché, sì, come, Roxane Maddalena... La PU, roba, vabbè, io... Vabbè, è andata così. Vuoi andare con la tua bolla? Non lo so. Non sai se ce la fai? Sì. No, guarda la regia, Mino. Tutti con le mani alzate, Kylie Minogue, questa ci ha fatto ballare tanto anni fa. Cosa facciamo? Guarda che sono tutti giovani. Guarda là, guarda, tutti i ragazzini. Dai. Alziamola un po' in cuffia. Ok, Giovanni, è Gentiloni time oggi, perché il ministro degli esteri risponde a interrogazioni in Senato alle 16, quindi c'è un appuntamento istituzionale preciso, su Libia e Siria. A noi interessa molto la Libia, ma in realtà anche la Siria, sono tutte cose legate all'immigrazione, certo, alla stabilità del Mediterraneo, del Medio Oriente, eccetera. Che cosa sta succedendo in Libia, però, è molto molto interessante. In queste ore ci sono delle cose meravigliose che escono poco sui giornali, perché incombo anche altre notizie, ovviamente ognuno può fare le sue scelte, però la Libia non è proprio un deserto dove trovi solo scorpioni e Tuareg. No. La Libia è molto ricca. Segnalo due cose. La prima è che Bengasi ha cercato di vendere il suo petrolio, l'avevamo detto, sì, con una petroliera che è stata bloccata al largo di Malta, e le Nazioni Unite l'hanno messa sotto sanzioni, quindi per evitare, no, la vendita di petrolio che si considera illegale. La realtà, certo, è che Tripoli e Bengasi sono chiaramente divise su questo. L'altra è la petroliera batteva bandiera indiana, quindi ci sono interessi colossali in tutto il mondo. L'altra cosa molto interessante è che la Banca Centrale della Libia continua a distribuire denaro a rotta di collo a tutte le fazioni, paga regolarmente stipendi, e è appena arrivato un nuovo carico di banconote stampate a Londra. Importante. Molto importante, che fa parte di un ordine di 116 miliardi di moneta libica che era stato fatto nel 2013 nell'era post Gheddafi. La cosa interessantissima qual è? Che il petrolio, insomma, il ministero la del... banca libica centrale continua a funzionare, funziona perfettamente alla grande, esatto, ma guarda che insomma, in uno stato che è non fallito, c'è, che non c'è, la banca funziona, la banca funziona. E l'altra cosa che funziona è l'elettricità, e chi dà l'elettricità alla Libia? L'ENI. Non sono... come il Venezuela che è al buio, esatto, ormai. Il Venezuela che è al buio e fa i weekend fuori dal lavoro, perché altrimenti si consuma, esatto, si lavora due giorni, quindi noi ho detto ENI perché in realtà, certo, ENI è la politica estera, certo, italiana in, certo, questo caso, quindi è molto importante sentire oggi cosa dice Gentiloni, perché siamo alla vigilia di qualcosa, certo, che sta per succedere. Beh, in Libia dice Gentiloni, lo dice Gentiloni, non fa così. Dai, adesso Salamino. Salamino. Aspettative e privative. Oh, tutti gli italiani, secondo Costituzione, hanno diritto alle cure gratuite per gli indigenti e hanno diritto alla salute, eccetto che in Sicilia e in Campania. Perché? Pure il paese del sole, il felicissimo regno delle due Sicilie, ma adesso che la Felix Campania e l'isola dei Siculi e dei Sicani fanno unico corpo con lo Stato già savoiardo, le aspettative di vita sono ridotte di 4 anni. In tema di sanità, il federalismo è fallito. La mortalità infantile è più alta del 30% rispetto al nord, e segnalo a tal proposito un'inchiesta di Goffredo Buccini oggi, sul Corriere della Sera che spiega bene questi passaggi. Aspettative privative dunque, saputa la trista notizia, 4 anni di vita in meno, la regione siciliana ieri ha pensato bene di dare vitamina C a tutti, e però non proprio a tutti, insomma. Per incentivare il consumo, ieri alla Buvette di Montecitorio, distribuzione gratis delle spremute di arance e tarocco di Franco Fonte. È stata un'iniezione di vitamina C a beneficio dei deputati, ottima panacea per darsi vigore e ridurre tossine. Insomma, povera Sicilia, travolta dai debiti, trova però i soldi per portare le arance in Parlamento e istituire adesso il reddito di cittadinanza. Questa è un'altra pensata, perché sono 800 euro al mese per tutti. E siccome sono bravissimo nelle tabelline, nelle moltiplicazioni, prendo 4, porto 1, vi dico i conti quali sono. Allora, 800 euro contro 7 miliardi, 525 milioni e 547 mila euro di debiti. Questi sono i debiti della povera Sicilia. Per cui, per esempio, per sanare la sanità, il debito sarebbe soltanto di 1,7 miliardi. Oh, che cosa può servire dunque? La vitamina C, la vitamina C. E quindi, con Brigantoni, ascoltate il religioso silenzio, il nostro nuovo inno. Brigantoni è un grande. Non lo so, nella mia playlist, scusa, non c'è. Tu la levi, ci levi. No. Vabbè, vabbè, ok, Brigantoni. Senti, adesso ascoltiamo una storia nuova, una storia di coraggio, di cambiamento, che come sempre arriva dalla rete di Italia che cambia. Alessandra Fiore ha intervistato un altro dei nostri agenti del cambiamento. Sentiamo. Mille speranze, mille vite, mille sogni, mille destini, quando si incontrano fanno scintille, fuori dai riflettori si muovono nuovi mille. Un solo sogno stretto dentro al cuore, che la politica sia ancora un'occasione. Partire chiedendosi non dove andare, ma chi conoscere. Con Destinazione Umana, infatti, la meta del viaggio sono proprio le persone. Silvia Salmeri, 30 anni, è una delle cofondatrici di Destinazione Umana. Silvia, come nasce questa idea? Beh, l'idea nasce da me e dal mio team. Siamo 10 ragazzi, insomma, tutti sulla trentina di Bologna. Io 4 anni fa, dopo 4 anni alla scrivania, ho deciso di licenziarmi dall'azienda per la quale lavoravo. Cosa facevi? Per aprire. Ero nell'ufficio commerciale, impiegata. Sì. E diciamo che mi sono resa conto che non era quello che desideravo, e mi è stata data la possibilità di aprire un bed and breakfast sulle colline bolognesi della Val Samoggia, dove abito. E quindi insomma sono stata host per un anno. Quell'esperienza mi ha dato modo di capire che i viaggiatori che arrivavano nella mia struttura erano sì interessati alle belle camere, al territorio, però erano altrettanto interessati a conoscere la mia storia, perché vedevano insomma una ragazza giovane che stava realizzando il suo sogno, che aveva un messaggio positivo da condividere, ed erano altrettanto interessati a raccontarmi le loro storie. Quindi c'era proprio un forte scambio di conoscenze, di esperienze. Da lì, quando è terminata la mia esperienza da gestore, mi è venuta l'idea di mettere insieme delle strutture ricettive che avessero la mia stessa filosofia di accoglienza e di promuovere appunto un viaggio che fosse prima di tutto incontro. Mi fai un esempio concreto delle vostre offerte di viaggio? Sì, diciamo che noi proponiamo 4 ispirazioni al viaggiatore, che sono il cambiamento di vita, l'innovazione, quindi per chi è alla ricerca di incontrare qualcuno che lo stimoli nello sviluppo di un'idea di impresa innovativa, la ruralità, quindi filone di viaggio legate all'immersione nella natura, e spiritualità invece legate alla ricerca di se stessi. Quindi innovazione, per esempio, io voglio fare un viaggio sul filone innovazione, dove mi mandi? Ti mando a Bologna, al Podere San Giuliano, dove sono appena stata, e i ragazzi che lo gestiscono hanno un progetto assolutamente innovativo che si chiama Orto dello Chef, e loro praticamente hanno deciso di riconvertire la loro azienda agricola, che non è più solamente l'azienda agricola che rifornisce l'agriturismo, ma hanno creato un circuito di chef con i quali due volte l'anno decidono i prodotti che gli chef vogliono per i loro menù, loro glieli coltivano, e quindi diciamo che c'è un rapporto, un filo diretto tra l'azienda agricola, lo chef e quello che poi il cliente del ristorante andrà a mangiare. Quindi, insomma, e quanto costa un viaggio del genere? Ma diciamo che la formula weekend, che è quella su cui noi puntiamo, quindi due notti con formula pernottamento, e poi dove ovviamente c'è quindi la condivisione dell'esperienza e quindi di quello che si può andare a imparare a fare, si aggira intorno ai 250 euro. Ho capito. Insomma, cifre assolutamente accessibili. Grazie Silvia Salmeri. Per altre informazioni su Destinazione Umana e le altre realtà della rete di Italia che Cambia, www.italiachecambia.org. Mario, riprendiamoci. Sì. Vabbè, un po' di Kiss. Vabbè, oggi Gloria ha scelto lei, va? Quindi va bene, che va bene. Oh, visto che Gentiloni dovrebbe parlare anche di Siria, che cosa sta succedendo? Perché bisogna sempre tenere seguire, perché poi se uno dice è successo questo, è successo. E i russi ci sono, sì, naturalmente, e fa un po' ridere perché dicevano che appunto si erano ritirati. No, sono lì e bombardano. Sono concentrati sulla zona di Aleppo in questo momento. Vogliono riprendere Aleppo. Sì, le guardie rivoluzionarie iraniane sono già lì nei dintorni e stanno arrivando rinforzi delle brigate meccanizzate dell'esercito siriano. Questo significa che stanno per lanciare l'offensiva. Quindi nelle prossime settimane ISIS probabilmente potrebbe perdere il controllo della capitale. A questo punto si apre tutto un capitolo nuovo sulla Siria. Già secondo me dovremmo avere delle indicazioni dai colloqui di pace che dovrebbero, insomma, portare a qualcosa di più a questo punto. Veniamo anche al ruolo degli Stati Uniti, certo, nelle prossime settimane, se Obama si impegna di più o no. Si impegna di più o se fa l'accordo con i russi? Beh, dovrebbe a questo punto. Sai, i padroni del campo sono i russi. Pietrangelo, canzoniere. Se bronzo, pietra, terra e mare sconfinato sono travolti dal potere spietato della morte, come potrà opporsi la bellezza a tanta furia se il suo vigore è pari all'anelito di un fiore? 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Erano le 21:45, con me c'era il maresciallo della polizia come scorta e l'autista e uno dei segretari. Scesi dalla macchina, ero stato colpito col calcio della pistola, dopodiché mi trovai trasportato a braccia su un camioncino coperto. Un agguato sanguinoso, due vittime e un ferito. Cinque terroristi delle BR a volto scoperto rapiscono Ciro Cirillo, 60 anni, democristiano, assessore all'urbanistica della regione Campania. Sono le 21:45 del 27 aprile dell'81. Doveva essere l'ennesimo sconcertante caso di una perfetta azione di uomini delle Brigate Rosse. Diventerà un clamoroso caso politico che vede coinvolti i servizi segreti, i vertici della DC, Raffaele Cutolo, capo della nuova camorra organizzata, alti funzionari dello Stato, giornalisti. La trattativa, il caso Cirillo, 89 giorni di un gioco pericoloso di deroga alle regole della democrazia per liberare l'uomo chiave della ricostruzione della campagna devastata dal terremoto. Le connivenze, i ricatti, le verità nascoste, i misteri. Qui a Mix24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Andrea da Ravenna, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno per il canzoniere, allora, che ci dice? Un sonetto di Shakespeare. Giusto! Bravo! Come va, Ravenna? C'è brutto tempo, però. Brutto tempo, vabbè. Lei che fa di bello? Io sto per finire economia. Mm-hmm. E sono un appassionato di teatro e... in pratica ho recitato questo sonetto una volta fantastico. A teatro, quindi, quindi lo sa proprio a memoria. Va bene, auguri per tutte e due le cose, allora, per il teatro e per l'economia. Grazie. Grazie mille. C'è ancora una bolla, Mario? Sì, segnalo un Ghecchino. È tutta questione di soldi, ragazzo. Il resto è conversazione. Allora, e se tutta questione di soldi, teniamo d'occhio la Spagna, perché questi vanno a elezioni, come sì. avevamo detto, il 26 giugno, un fallimento enorme dal punto di vista politico, e tra l'altro le proiezioni indicano che il governo più o meno, cioè le possibilità di governo saranno più o meno le stesse. L'altra cosa, è uscito il dato dell'inflazione in Spagna, è molto grave, perché è in piena area deflattiva, è a meno 1,2%, la pressione sui prezzi a questo punto incide notevolmente poi su tutto il resto. Il PIL, l'occupazione, e si riverbera in una situazione europea molto difficile sotto questo aspetto. Sotto un po'. Tanti aspetti oramai. Sì, cioè la BCE sta pompando denaro, ma il target dell'inflazione non riesce a centrarlo. E poi, tra l'altro, la Germania attacca anche Draghi. Sì, secondo me, come abbiamo già detto, i tedeschi hanno in mente il progetto della Kerneuropa, cioè di una piccola Europa, di un gruppo di un gruppo di testa. Tenete presente che nella giornata di oggi né la Federal Reserve né la Bank of Japan hanno modificato la politica sui tassi e le borse non stanno l'hanno presa calando. Benissimo, insomma. E adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, marzo 2016. Uno studio sull'induzione del parto nelle donne con più di 35 anni di età. Il rischio che una gravidanza non vada a buon fine aumenta con il progredire dell'età e naturalmente aumenta maggiormente nella donna dopo i 35 anni. E siccome questo fatto è sempre più frequente, come sappiamo, le donne tendono a spostare la nascita del primo figlio dopo quest'età, si è andati a vedere se l'induzione del parto facilita il parto stesso, nel senso che ci sono meno tagli cesarei e soprattutto se nascono meno feti già morti. Quindi, se è necessario indurre il parto se si superano le canoniche 39 settimane. Sono state quindi studiate 619 donne, la metà sono state sottoposte all'induzione del parto se avevano superato le 39 settimane, le altre si aspettava a meno che non ci fossero eventi medici che suggerissero la induzione del parto o il cesareo. Cosa succede a questo gruppo di donne, tutte, ripeto, ultra 35 anni, quindi un po' il prototipo della donna moderna che oggi partorisce, come abbiamo detto, più frequentemente dopo questa età, si è visto che non è successo nulla ad aspettare. Quindi l'induzione del parto, che spesso viene invocata come diminuzione del cesareo e diminuzione del feto nato morto, è un scrupolo medico che non vale la pena andare a seguire. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ci dedica oggi? Oggi una canzone per chi, alla domanda: ma quel tuo fidanzato, quello bello, che fine ha fatto? Risponde: non lo vedo da anni, ma penso a lui ogni giorno. Nicola Di Bari, se mai ti parlassero di me. Se mai ti parlassero di me, chi lo sa se in fondo a te troverai un sorriso sento ancora, sai.